Sono anche inconvenienti del viaggiatore, signor Bjørn Larsson, al quale do il buongiorno e bentornato sì. Su Radio Città Fujiko. Sì, grazie, grazie. Buongiorno. Sono inconvenienti del viaggiatore, dicevo, questi aspetti di raffreddamento momentaneo. A proposito del suo ultimo lavoro, La filosofia minima del pendolare, Bjørn Larsson, edizioni Iperborea, che è qua al telefono con noi, imminente la sua presenza a Bologna alle Coppe Ambasciatori, e quindi ne approfittiamo per estorcere qualche anticipazione. Allora, da come è nata l'idea di riprendere questi piccoli spostamenti? Beh, diciamo che come deformazione professionale ho sempre ascoltato, osservato, avevo preso appunti durante i viaggi, così, però non nell'idea di fare un libro veramente, era, diciamo, faceva parte del mio lavoro di scrittore più o meno. Però è arrivata la pandemia e quando è arrivata la pandemia tutti i pendolari a casa ovviamente, e lì mi sono detto: ma che cosa succede nella testa di tutto questo pendolare che un giorno all'altro devono rimanere a casa? E lì ho iniziato a riflettere un po' in una maniera più ampia su questo fenomeno di massa, perché lo è. È diventato questo piccolo libro, è piccolo, è diventato questa riflessione sulla vita dei pendolari, incluso la mia. Ho apprezzato molto l'aspetto di attenzione che si ha nel dettaglio, in questo caso anche per le piccole cose che ci fanno compagnia, a volte anche un po' inquietanti, ma molte volte diventano parte integrante del viaggio, dei piccoli oggetti, ecco, se vogliamo, oltre che dei protagonisti in carne e ossa che diventano involontariamente compagni di viaggio. Da cos'è costruito tutto ciò? Beh, diciamo che il punto di partenza penso che non è soltanto, diciamo, il mio come pendolare, che ho, è il fatto che il viaggio di pendolare è un viaggio nel vuoto, più o meno. Io lo riscrivo come tre puntini fra parentesi. Normalmente il pendolare fa il massimo per non vedere passare il tempo, dunque è un viaggio di nulla a nulla, perché si ripete ogni volta, non arriva da nessuna parte. Per esempio non ha senso di chiedere a un pendolare: da dove vieni? No, perché è così ovvio che viene da casa e torna a casa dopo. Così è un non viaggio in un certo senso, però è questo che ho voluto dimostrare, che se uno ha gli occhi un po' aperti si può anche scoprire cose divertenti, un po' tragiche, e altre piccole cose che dicono qualcosa sulla vita della gente. E ho letto anche in qualche anticipazione che c'è un'attenzione anche per i non luoghi. I non luoghi, magari posti sottovalutati, posti non turistici, posti che nell'immediato trovano motivo di passaggio, ed è proprio lì che magari c'è un amplificarsi della sensibilità e della bellezza. Ho intuito bene? Sì, nel senso che io faccio parte di una giuria in Francia che dà un bel premio al nome di Nicolas Bouvier, un grande scrittore, viaggiatore. Ha un libro di viaggio, romanzo o no, ogni anno. E la cosa che abbiamo scoperto, perché ogni anno leggiamo una trentina di libri di viaggio, e la gran maggioranza di questi libri di viaggio parlano di angoli, di posti di cui nessuno ha sentito parlare prima. E forse è anche questo che ha ispirato un po' il mio libro, insomma, fare scoprire un aspetto della vita che tutti conoscono senza conoscerlo. Sì, sì. Tante sono le sue esperienze da pendolare. Sì, però bisogna dire una cosa, che non ho mai fatto il pendolare in macchina. Ok. Dunque non ne parlo nel libro. Però il fatto è che ho vissuto in Danimarca, ho vissuto in Svezia, adesso vivo, diciamo, un mese su due in Italia. E dunque faccio questo pendolare da 40 anni, entro paesi. All'epoca, quando vivevo sulla barca, per esempio, avevo cambiato di porto ogni settimana, ogni due settimane, e dunque con altri percorsi di pendolare. Forse la mia esperienza è, come direi, c'è più variazione nella sì, mia okay. vita di pendolare che sì. con la maggioranza. Beh, di questo in Filosofia minima del pendolare, nel libro Edizioni Iperborea di Bjørn Larsson, che aspettiamo a Bologna alla Coppa Ambasciatori e che troviamo al voltiamo pagina, invece la rubrica letteraria dei 103.1, una possibilità che ha portato in più ad apprezzare magari anche i piccoli spostamenti, anche l'aspetto abitudinario, anche la poesia, che io amo tantissimo, che c'è in questa sensibilità. Grazie a Bjørn Larsson. Grazie a voi, grazie. E una buona giornata. A presto. Anche a lei.